Filumè, tu sei imparato tanta cosa bella, spartendo sempre a trina caramella. Quando una mamma tiene sulle figlie, o padre non ci sta. Filumè, per lo astu non mi marturano, hai fatto finta che non stiva buono, nemmeno breve te se n'era accorto, ti hai fatto sposare. E che coraggio quando hai raccontato, guardando rin dall'occhio l'avvocato, tutta miseria gli veniva amore solo per campare. Tu già eri rosso pure piccerello, quando hai stracciato i soldi in faccia a chi, dicendo tu stirare i figli non ne può pavare. Le vighe scure e senza sole, quando a figlia è mai nessuna scuola, a dovavano te leva l'aria, e solo fritto te può dar calore. Foro vascia s'aspettava sempre, uno piatto solo, in mezzo a sei bicchieri, tu potevi mangiare. Filumè, a storia là ha saputo tutto mondo. Quando hai parlato sul camaron, tutta ingazzata e ritto tu sei mamma, prima che già fa. E pochi l'uomo che ha maltrattato, per un miracolo si è innamorato, e ha diventato per questi tre figli che hai cresciuto tu. L'individuo scuro e senza sole, quando figlia è mai nessuna scuola, a due cavere te leva l'aria, e solo fritto te può dar calore. Foro vascia s'aspettava sera, con un piatto solo, in mezzo a sei bicchieri, per poter mangiare. Una compagna tua è bella vestuta, erroriava la per fare peccato, te portai pa' mano in coppa a strada, che la strada che te cagna vita. A due sorte va venire minuto, quando una carezza straccio con la pietra senza me pietà. Filumè, salva me là tutti sti guaglioni, che si perdono senza ragione, non fa piangere a nessuna mamma, come hai fatto tu.